E buonasera, buonasera, benvenuti, benvenute a tutte e a tutti all'ascolto. È lunedì 30 ottobre, questa qui è Entropia Massima e questa qui è la prima puntata di Antropologica. L'introduzione mia è soltanto per dire che appunto oggi cominciamo un nuovo pezzettino della nostra grande famiglia di Entropia Massima, aggiungendo Miriam, ma vi spiegherà lei bene che cosa succederà. E apriamo, come abbiamo detto nell'introduzione, apriamo per la prima volta alle scienze sociali dopo aver parlato tanto di scienze dure, ma forse non sappiamo più che dire, chi lo sa se è così con le scienze dure, ma in realtà non è vero, perché abbiamo capito che tra le scienze dure e le scienze sociali ci sono più connessioni che del previsto. E quindi io, senza dire più niente, nell'arco della trasmissione sono qui soltanto come trasmettitore, do la parola a Miriam. Ciao Miriam, benvenuta. Grazie Lorenzo, ciao. A cui daremo prima o poi un grado come al comandante Jacopo. L'aspetto. Allora, grazie, quindi benvenute e benvenuti tutte e tutti. Io sono Miriam e sono niente proprio di meno che un'antropologa. Allora, sono davvero felicissima di essere qui, contenta molto molto, nel contenitore di Entropia Massima, che, come dicevi tu Lorenzo, da anni parla a Radio Onda Rossa di geologia, di intelligenza artificiale, di fisica, astrofisica, di matematica, insomma di scienze naturali, e tu le chiamate scienze dure, di scienze esatte direi anche tra virgolette. E come dicevi, è la prima volta che trova spazio una scienza sociale, che per l'appunto è l'antropologia. Ora, immagino che sia arrivato, come accennavi, il momento storico di meticciare le discipline anche in radio. E allora iniziamo e cominciamo proprio col dire che cos'è l'antropologia. Ci aiuta l'etimologia della parola stessa: da antropos, uomo, nel senso di umanità, e non in quanto individuo di sesso genere maschile, e logos, che è traducibile con discorso, quindi ragionamento, studio. Allora, l'antropologia cos'è? È il discorso, è il ragionamento, è lo studio dell'uomo e dell'umanità, del genere umano, diceva l'antropologo Ugo Fabietti. E qui però mi voglio soffermare un attimino proprio sulla questione del genere umano, perché secondo la classificazione degli esseri viventi, iniziata, pensate, nel 1753 da Linneo, Linneo era un botanico, era un medico, un naturalista svedese, è anche considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli esseri viventi. Ecco, perché noi esseri umani siamo una specie. E più precisamente siamo la specie sapiens del genere Homo, e facciamo parte del regno degli animali, della classe dei mammiferi, dell'ordine dei primati e della famiglia degli ominidi. Quindi, insomma, l'antropologia studia questa umanità qui. Ma che cosa precisamente di questa umanità? Cioè, perché veramente sono molte le discipline che si occupano dell'uomo, la medicina per esempio, la psicologia, la filosofia, la genetica. E allora iniziamo a farle delle prime distinzioni che riguardano il soggetto di studio di queste scienze. Ah, la prima, che tagliamo per necessità un pochino con l'accetta, perché ci vorrebbe veramente molto tempo per contestualizzarla molto meglio, ma andiamo piano piano che stiamo soltanto iniziando, ci torneremo, avremo modo di tornarci nei nostri prossimi incontri. Quindi, dicevo, il primo distinguo che facciamo è tra l'antropologia fisica e quella culturale e sociale. Allora, l'antropologia fisica studia la storia naturale dell'uomo considerandone l'origine, l'evoluzione fisica e bioculturale, la variabilità biologica e i meccanismi di adattamento all'ambiente, con riferimento alla diversità dei gruppi umani attuali e anche quelli del passato. E l'antropologia culturale e sociale, che sono state fondate in contesti sociali, culturali, storici e geografici molto molto diversi fra loro. Pensate che la prima è stata fondata negli Stati Uniti e la seconda in Europa. Ecco, queste due discipline hanno sempre studiato l'essere umano, ma dal punto di vista delle sue complesse forme di organizzazione, che vuol dire capire come si nutre, analizzare come si veste, come festeggia, come organizza la vita, come e perché emigra, come lotta, e come e che cosa per esempio lo fa stare male, lo fa ammalare, come si cura, come muore, come costruisce il suo corpo, ancora come si relaziona ad altre forme di vita e alla sua stessa specie. Insomma, è un elenco veramente infinito. L'antropologia studia tutto, ogni aspetto, gesto, simbolo, rituale, pensiero dell'essere umano. Per questo è una disciplina così importante, perché riguarda proprio noi. E quindi immagino che a questo punto si sia capito che questa trasmissione nasce proprio per parlare di antropologia, di questa impresa conoscitiva. Ma non ne parlerò da sola, ovviamente, ce la faremo raccontare da colleghe e colleghi antropologi e antropologhe che di volta in volta, circa una volta al mese, interverranno per parlarci del lavoro che fanno, ma anche per spiegarci come possiamo usare quel loro lavoro, quel loro studio, quella loro ricerca per risolvere spesso o comunque anche soltanto per affrontare meglio i problemi delle società in cui viviamo. Ma appunto, basta parlare da sola. Ci ascoltiamo un pezzo di Sandro Joyeux e ci sentiamo tra poco con la prima invitata, Selenia Marabello. Quand les rumeurs de la guerre arrivèrent jusqu'au village, tout le monde savait, tout le monde sentait que le quotidien n'aurait plus jamais le même visage. Réunis sous l'arbre millénaire, les anciens contemplaient le lointain. Qu'adviendra-t-il de notre peuple? Qu'adviendra-t-il de notre forêt? Au village, le papier roi n'existait pas, mais la forêt, elle, la forêt était encore là. Comme tous les enfants du village, c'est sous l'arbre millénaire qu'elle manne, mon ami Naki. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Le ruisseau de sa vie de la rivière, et chaque nuit dans ses songes, vagabondait l'ombre de sa mère. Un matin baigné de soleil, elle manne, bénit le ciel et quitta le village. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Mais sur la route qui mène à Kinshasa, elle mando les soldats, les enfants soldats. Elle mando du thé pour sa vie. Combattre pour survivre. À Kinshasa, de Khartoum à Kangaba, de Kisangani au faubourg de Gaza, de région en région, de nation en nation. Fiquez-vous à Kinshasa, de Khartoum à Lampedusa, de Kisangani au faubourg de Gaza, de région en région, de nation en nation. L'univers réserve parfois de bien étranges destins. L'univers réserve parfois de bien étranges destins. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Maléfice des étoiles et de la terre. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Elle m'a noté, balana. Tu vas bientôt la revoir. Tu vas bientôt la revoir. Ta maman est crainte. Tu vas bientôt la revoir. Ta maman est crainte. Tu vas bientôt la revoir. Eccoci tornati ad Antropologica, io sono Miriam e questa è Antropia Massima. Abbiamo appena ascoltato Alexandre Joyeux, Paganini, in arte Sandro Joyeux, con un pezzo che si titola El Mando, un pezzo a mio avviso davvero molto potente che racconta il viaggio di un uomo migrante dal Congo all'Europa. Ma ecco, sotto ci dovrebbe essere Selenia. Selenia, ci sei? Eccola. Ciao Miriam. Ciao Selenia, grazie di essere qui, di aver accettato di intervenire. Ma lo sai, sì, che sei la prima invitata in assoluto. Cioè, facciamo questo rito di passaggio insieme. Accidenti, aiuto. Come tutti i riti di passaggio terrorizza un po'. Allora, però, Selenia, grazie mille, un onore. Ma grazie a te. Selenia Marabello è ricercatrice e docente di antropologia del mondo contemporaneo e antropologia delle migrazioni presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Hai capito? Mm-hmm. Senti, grazie dunque. Pare di sì. Piccolo. Pare di sì, piccolo Ateneo. No, grazie a voi. Da dove cominciare? Dunque, come tutti i riti di passaggio, c'è il problema di come ci si posiziona, che è una questione principale su cui torneremo in questi pochi minuti insieme, perché è uno dei temi principali della nostra disciplina. E Clifford Geertz era un grande antropologo e diceva che gli antropologi sono mercanti di stupore, oppure stracciventoli della storia. Io oggi invece non cercherò di stupirvi perché abbiamo pochi minuti, proverò a raccontarvi che cosa faccio io, come faccio ricerca. Mi occupo di migrazioni, dal West Africa, sì. Quindi non l'area congolese, ma le aree legate a Ghana, Senegal, Costa d'Avorio, in particolare Ghana. Lo faccio attraverso cosa? Attraverso quello che per noi è il metodo, cioè le ricerche etnografiche, che sono il modo di produrre dei dati qualitativi in diversi contesti, seguendo traiettorie migratorie, reti familiari, attraverso ricerche tendenzialmente sempre più multisituate. Proviamo ad andare un po' con ordine. Sì. La mia esperienza di ricerca comincia, non sono una giovanissima, alla fine degli anni 90, in West Africa e in particolare tra i Sefwi, che abitano in Ghana, dove ho vissuto a quel tempo, era proprio il battesimo, proprio di rituali professionale, poco meno di un anno, e dove sono poi tornata più volte. A quel tempo mi occupavo di pluralismo medico e delle configurazioni di genere e prestigio connesse all'apprendistato. Essenzialmente mi chiedevo, e con me qualche altro ricercatore, se esistesse un nesso tra genere e pratiche di cura, cioè se le pratiche di intermediazione col sovrannaturale proprio si stessero femminilizzando e per quale ragione, perché marginalizzate. Ora, senza entrare nel merito, in quegli anni il rapporto tra genere e apprendistato non era certo al centro del dibattito pubblico e neanche di quello scientifico, sia chiaro, però comincio da lì perché in quegli anni erano gli anni in cui si cominciava a lavorare con più accuratezza su cosa? Sulle proprietà farmacologiche delle piante, si parlava dei brevetti, della proprietà intellettuale dei saperi locali. Quindi l'antropologia, come avete ben detto, in realtà ha moltissime connessioni con altre discipline. In quegli anni il dibattito era tra giuristi, tra esperti di farmacologia, e tra questi antropologi invece andavano sul campo a raccogliere proprio eziologie di malattie, a ricostruire nosologie vere e proprie. Nel tempo i temi di ricerca sono cambiati, ho lavorato sulle forme di impegno delle diaspore nella cooperazione allo sviluppo e poi proprio su processi migratori e salute, approfondendo alcune questioni connesse alle rappresentazioni plurali di malattia e di cura rispetto ad HIV e poi Covid-19. Sul Covid-19, durante il lockdown, quando tutti noi eravamo così spaesati, cercavamo di capire che cosa ci stesse accadendo, con una collega proprio in quei mesi in realtà abbiamo incrociato una serie di dati e avevamo lavorato per andare a vedere che cosa stesse succedendo nelle strutture d'accoglienza migranti, come poteva essere vissuta quell'esperienza, l'argomento, ma soprattutto l'incertezza dei dati scientifici, come veniva vissuto da qualcuno che comunque si sente escluso dal paese e soprattutto come viene vissuto quando proprio vengono a mancare anche altri diritti. Certo. E poi ho lavorato ancora con alcune madri migranti. Le madri migranti in Italia sono raccontate come corpo vulnerabile per eccellenza, sono e invece io mi chiedevo se potessero accelerare dei processi di elaborazione della convivenza, e ho cominciato a lavorare di nuovo sulle strutture di accoglienza dove avevo già lavorato. Perché? Perché è un luogo importante, perché è lo Stato che dispone chi può abitarli, per quanto tempo. Però le madri migranti sono interessanti da un punto di vista antropologico, perché mettono dal punto di vista del corpo una relazione così chiara tra stato, corpo, migrazione e legame sociale, proprio perché il loro corpo è un corpo duplice, quindi i diritti non sono solo i diritti individuali di una donna, ma sono i diritti individuali appunto di una donna che diventa madre in migrazione. Ora, come fa un antropologo a lavorare su questo? Su questo ha detto bene Miriam, lavorano i giuristi, ci possono lavorare gli psicologi. L'antropologo lavora su questi temi con una conoscenza profonda dei contesti d'accoglienza e delle migrazioni, lavorando su corpo individuale, piani culturali, rappresentazioni e soprattutto orizzonti storico-politici. Nel mio caso, nello specifico, il lavoro di ricerca si nutre di un impegno anche al di fuori delle aule accademiche. Infatti, Sebenia, volevo proprio chiederti come tutto questo che ci stai raccontando, perché so del tuo impegno al di fuori dall'accademia, si concretizza e ha un eco anche appunto sul sociale. Hai parlato di madri migranti, hai parlato di campi di ricerca al di fuori dell'Italia, quindi ecco, raccontaci un po', approfondisci un po' questo aspetto che è veramente molto interessante ed è forse l'aspetto che poi si conosce di meno dell'antropologia. Ma dunque, ovviamente a questa domanda molti colleghi risponderanno con modalità molto diverse, quindi io provo a raccontarti come faccio ricerca, e il far ricerca per me significa sin dalla prima ricerca appunto in Ghana ha significato mettere in campo competenze insieme ad altre persone, quindi ho sempre impostato le mie ricerche con modalità per cui già nelle fasi di ricerca sul campo alcuni dati potessero essere prodotti o ridiscussi, per esempio con i gruppi sociali coinvolti. Talvolta questo impianto è stato più solido, come in alcune ricerche condotte sulla violenza di genere in Sicilia all'inizio degli anni 2000, in altre è stato un'impostazione è stata tradotta. Per esempio, quando lavoravo in ospedale, lavoravo su ricerche in campo infettivologico, significava anche fare formazioni in campo ai medici e quindi stare in ambulatorio, stare in reparto, produrre ricerca, ma al contempo quella ricerca diventa sedimento, diventa nutrimento per dei professionisti che lavorano e che acquisiscono altri strumenti. Sono convinta che l'antropologia, da una parte, ovviamente questo continuo oscillare tra piani in cui rileggere il rapporto tra micro, quindi quello delle azioni individuali di chi migra o di chi non riesce a muoversi, il quadro macro dei processi politici che interrompono, disegnano le traiettorie migratorie, è un problema, cioè nel senso è qualcosa che richiede una continua tensione proprio metodologica ma anche proprio di ricerca. Sono però convinta che la ricerca antropologica possa illustrare alcuni processi culturali e le implicazioni politiche, demistificando alcune prassi che regolano cosa? L'organizzazione delle idee. L'antropologia però non è un sapere prettamente applicativo, quindi non è una formula. Nello studio dell'umano noi ci continuiamo a preoccupare non solo di produrre conoscenza ma di restituire nelle nostre stesse monografie, nei nostri stessi lavori, come quella conoscenza è stata prodotta. E questo ha bisogno di un lavoro continuo sul sé. Io penso per esempio che qualcosa di fondamentale ormai sconosciuto è un impegno per insegnare con rigore e con impegno anche nelle università pubbliche, perché è complicato formare un antropologo che sappia muoversi, sappia fare ricerca, sappia muoversi per rileggere le cornici che orientano la ricerca, abbia una capacità lunga nel tempo anche di nutrire altre discipline, perché ha bisogno di studiare anche altre discipline e nutrirsi di questo dialogo. E questo è un tema, per esempio, che in Italia è su cui in Italia c'è veramente poca attenzione, lo si dà per scontato. Selenia, secondo te questo aspetto di cui stai parlando è una forza in atto? Quando tu dici all'interno dell'università queste leve potrebbero essere interessanti rispetto alla formazione di antropologi che poi si trovano a che fare con questioni sociali, anche di risoluzione di tutta una serie di problemi, che dici? Sì, io direi che in altri paesi tutto questo è già accaduto. Io mi sono formata in Inghilterra, quindi per me tutto questo è un bagaglio già solido. In Italia sicuramente c'è un movimento in questa direzione, ma è anche vero che appunto io su questo probabilmente sono un po' più ferma di altri colleghi. Io penso che oltre a formare all'esterno, che è qualcosa di fondamentale, tutta la mia vita è fatta anche di formazione fuori dalle aule accademiche, è proprio formare con rigore e rimanere nelle università pubbliche, perché è proprio l'insegnamento che in questo momento, non solo nelle università, ahimè, è altamente misconosciuto, il suo valore è altamente misconosciuto nel nostro paese. Concordo con te che bisogna ripartire dall'insegnamento. Grazie Selene, sei stata veramente molto chiara e molto generosa. Ti volevo chiedere, tutto questo che ci hai detto, che comunque sembra veramente un bagaglio complesso in termini di percorso formativo, il tuo percorso formativo è di insegnamento, quindi tutto quello che poi riesci a restituire agli studenti, ma anche a un contesto sociale fatto di servizi, fatto di studenti che poi probabilmente lavoreranno nella nostra società. Quindi mi chiedo e ti chiedo, questa antropologia che tu fai, a tuo avviso, certo è un domandone, ma insomma a tuo avviso come può essere utile al nostro contesto socioculturale o anche ai contesti socioculturali di cui ti occupi o di cui ti sei occupata? Ma penso che sia utile perché è capace, l'antropologia culturale proprio per il suo statuto disciplinare è capace di decostruire le prassi che governano servizi, idee, norme, anche norme scritte come quelle legislative, e riesce a decostruirle per farli vedere come quali idee le hanno guidato, quelle norme, quelle prassi. Quindi questo noi lo possiamo applicare nei contesti più svariati. Nel contesto delle migrazioni io penso che non solo insegnando in università ma facendo formazione fuori e continua a operatori sociali, a operatori sanitari, significa che l'antropologia alimenta i suoi dubbi conoscitivi, riflette e fa riflettere sui posizionamenti che assumiamo quando curiamo, sui posizionamenti che assumiamo quando accogliamo in un certo modo piuttosto che in altro, o quando interpretiamo alcuni comportamenti con degli stereotipi e dei pregiudizi che sicuramente, che in nome di un presunto incontro culturale che in realtà non è così per nulla, e quindi penso francamente che l'antropologia possa dare proprio una metodologia, un pensiero, però per farlo ha bisogno di un dialogo vero con le altre discipline. Non è, ecco, dal mio punto di vista non è un sapere, noi ovviamente non abbiamo un atlante umano, non è un sapere con formule precise, un sapere applicativo che si può applicare tout court sempre in ogni contesto, è un sapere che si sviluppa nelle relazioni con le persone, nel rispetto delle persone e nel rispetto delle conoscenze anche proprio con contesti, territori, artisti. Cioè, giusto per farti un'idea, nell'ultima lezione, una delle ultime lezioni che ho fatto la settimana scorsa nella formazione post laurea, in realtà l'ho fatta con degli artisti ben noti, l'ho fatta con Laura Morcolini di Studio Azzurro, avevamo lavorato proprio su come le nel presentare, nel raccontare storie, installazioni, quindi una produzione artistica, le migrazioni, quali sono i linguaggi antropologici, i linguaggi scientifici, ma quali sono anche i linguaggi artistici per raccontare quest'altrove. E questo è un impegno continuo, ma anche di rilettura di cosa dico, come lo dico e quali sono le intenzionalità in gioco. E questo è un tema molto, molto caro all'antropologia ed è qualcosa che va riaffermato, no? Cioè questa attenzione costante alla produzione di conoscenza, oltre che alla conoscenza di per sé. Sì, avrei tantissime domande da farti, mi piacerebbe restare con te ancora per molto, purtroppo non lo posso fare e quindi ti chiedo, in un flash, l'antropologo non è un lavoro per... L'antropologo non è un lavoro per chi si accontenta di posizionamenti facili. L'antropologo non è un lavoro per chi non vuole farsi mettere in crisi, né tantomeno per chi le crisi non è disposto a governarle. Grazie Selenia, grazie davvero tanto di essere stata con noi, tornerai. Una promessa di ritorno. Hai lasciato, hai aperto veramente tanti, tanti campi e ti ringraziamo tutte e tutti qui. Grazie. Buonasera a tutti voi a e te. Grazie mille. Buona serata. Altrettanto. Ice, water frozen solid. Ice, immigration and customs enforcement. Ice, el hielo. Pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Se queda ya, eso pasa por salir a trabajar. Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, se queda ya, eso pasa. trabajar. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. Bentornate e bentornati ad Antropologica, la trasmissione interamente dedicata all'antropologia di Entropia Massima sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Allora, abbiamo appena ascoltato il gruppo messicano-statunitense che si chiama La Santa Cecilia con il pezzo Ice e l'Hielo, che si riferisce non soltanto al ghiaccio, come sembra, dall'inglese ice e dallo spagnolo hielo, ma dall'acronimo ICE, Immigration and Customs Enforcement, cioè le forze dell'ordine statunitensi, il cui obiettivo è quello di, e cito il loro sito, proteggere l'America dalla criminalità trasfrontaliera e dalla immigrazione illegale. Il pezzo si riferiva proprio alla vita che conducono senza documenti le persone che provengono dall'America del Nord, quindi anche dal Messico, dal centro e del sud. Ma come sempre parlo troppo. C'è Ivan? Parli con me? Ivan Severi, eccolo qui, benvenuto, grazie Ivan di esserci, di aver accettato di intervenire, anche se sei malaticcio, abbiamo saputo qui. Sono raffreddato, mi hanno detto che questo fa la voce più radiofonica. Ma chi te l'ha detto? Il nostro regista te l'avrà detto, non convinci nessuno. Il regista mi ha detto che è molto meglio così. Ivan Severi, che è un antropologo professionista. Severi, qui la prima cosa da fare, direi, è spiegare a tutte e tutti noi che cosa fa un antropologo professionista. Raccontaci del tuo lavoro e aiutaci a capire, e soprattutto a capire chi ascolta, ma anche me, qual è l'antropologia di cui ti occupi. Allora, sì, è vero, io sono un antropologo professionista, ma c'è anche da dire che mi occupo di un ambito abbastanza specifico e, se vogliamo, abbastanza anche circoscritto dell'antropologia, cioè io lavoro nell'ambito dei servizi sociali, molto più spesso nell'ambito dei servizi sociali che si muovono nei contesti più informali piuttosto che in quelli formali, anche se in realtà da questo punto di vista è abbastanza variegato il parco clienti. Io in realtà molto spesso, la gran parte del mio tempo da professionista lo passo comunque all'interno di un'equipe di lavoro. Su questo mi riaggancio un attimo ad alcune cose che ho sentito dire da Selenia poco fa. Io credo molto all'idea di un'antropologia che sia innanzitutto una disciplina di servizio. Questo cosa significa? Che credo che una delle più grandi potenzialità che ha è quella di riuscire a essere di supporto e aiutare altri professionisti che hanno altre competenze, arrivano da altre discipline nello svolgimento del loro lavoro. A me capita generalmente di lavorare con psicologi, con operatori sociali, con educatori, con qualche volta qualche professionista anche di area sanitaria, meno frequentemente, e quello che ritengo essere il contributo, diciamo, principale che posso fornire è quello di metterli nelle condizioni di svolgere meglio il loro lavoro ed eventualmente anche di trovare delle sfaccettature che non sono immediatamente evidenti in quello che fanno. Non so se questo in qualche modo risponde, probabilmente no, diciamo che è un modo per prendere una via laterale per raccontare quello che faccio, e pensavo che magari partendo da un esempio un po' più concreto potesse diventare un po' più comprensibile. Ci sono dei servizi che sono sostanzialmente molto formalizzati, sono quelli dove il cittadino si reca, a cui il cittadino si rivolge andando in un ambulatorio, andando ad uno sportello, cioè andando in un contesto che dove c'è un professionista di qualche tipo che raccoglie le sue esigenze. Mentre ci sono una serie di servizi che sono quelli con cui lavoro molto più frequentemente, che sono informali, il che significa che sono gli educatori o gli psicologi o gli operatori in generale che escono e si muovono all'interno di un territorio, un po' come farebbe un antropologo da questo punto di vista, all'interno di una situazione che si definisce fuori setting, quindi dove le persone che si incontrano sono quelle che decidono, sono le padrone di casa, quindi si ribalta tutto il rapporto eventuale di autorità che normalmente regge le relazioni. E quindi questi professionisti si trovano abbastanza sguarniti di strumenti. Da questo punto di vista, ad esempio, l'antropologia è un'ottima alleata, perché gli antropologi, da quando la disciplina è nata, sono abituati a muoversi in questo contesto, un contesto dove la legittimazione si costruisce sul campo, quindi non c'è un'autorità esterna che garantisce per l'antropologo, per il ricercatore sul campo. Allo stesso modo capita un po' all'interno di queste situazioni. Quindi io mi occupo di consulenza, di formazione, di ricerca, e cerco di aiutare anche, ad esempio, queste persone a muoversi con maggiore efficacia e anche magari un po' più sciolti in quel contesto. E a tuo avviso, Ivan, scusami se ti interrompo, i servizi, quindi questi operatori, come si trovano a contatto con un antropologo? Perché mentre per gli antropologi, stavi dicendo, e concordo con te, è un'abitudine quella di uscire dalla propria comfort zone per recarsi al di fuori di essa, per gli operatori invece quello è il proprio campo d'azione, quindi si tratta probabilmente, ma te lo pongo proprio come domanda, di mediare e negoziare anche campi che non sono storicamente dall'antropologia, o mi sbaglio? Dunque, diciamo che storicamente i campi dell'antropologia erano dei campi molto lontani. Da quando l'antropologia ha cominciato ad occuparsi anche di campi vicini, quindi quella che è stata definita a un certo punto l'antropology at home, sostanzialmente un po' qualsiasi aspetto della vita anche dell'Occidente è diventato oggetto di studio e di intervento da parte dell'antropologia. Vi racconto un piccolo aneddoto, riguarda un'esperienza che mi è accaduta oggi, giusto perché anche in questo caso magari può essere d'aiuto a comprendere meglio alcuni passaggi. Io sto seguendo una ricerca all'interno di una progettazione che coinvolge diversi partner, diverse cooperative, diversi educatori, operatori che arrivano da diversi contesti. A un certo punto questo progetto prevedeva comunque una fase di ricerca che si incastrava con l'idea di monitorare e anche valutare una serie di aspetti riguardanti questo progetto. Per la conformazione del progetto stesso, il tempo e le ore quindi a disposizione per portarlo avanti non erano così tante, quindi quello che mi è sembrato più opportuno fare, da sostanzialmente responsabile scientifico di questa operazione, è stato quello di utilizzare le educatrici che avevo sul campo. Quindi, sapendo che c'erano 4 educatrici che si muovevano all'interno di contesti che in particolare erano quelli dei locali notturni, perché il progetto riguardava, tra le varie attività, una serie di attività educative che erano volte all'aumento delle competenze sostanzialmente dei frequentatori dei locali notturni in merito agli effetti dell'alcol, finalizzati alla riduzione degli incidenti alcol correlati. Visto che non potevo, con il tempo e le risorse a disposizione, essere io l'etnografo sul campo, ho costruito assieme a queste educatrici una serie di strumenti che potessero essere utili a loro per portare avanti questa ricerca. Quindi sono diventate sostanzialmente ricercatrici a loro volta, magari nemmeno per loro scelta, nel senso che si sono trovate all'interno di questo contesto, però ci hanno anche preso gusto. Io continuo a seguire l'andamento di tutta questa cosa, ne sono uscite cose estremamente interessanti, e quindi da questo punto di vista sono riuscito anche a fornire alcune competenze pratiche supportate da alcune metodologie che siamo riusciti ad affrontare, che da un lato arricchivano, anche se vogliamo vederla esclusivamente da questo punto di vista, la dimensione scientifica, quindi arricchivano il patrimonio culturale che abbiamo a disposizione nella comprensione di determinati fenomeni, ma allo stesso tempo consentivano a loro di avere competenze nuove da spendere nel contesto. E aggiungo questo ultimo passaggio, perché io lo ritengo un elemento fondamentale dell'antropologia, se non altro quella di cui mi occupo io, che è quella problem oriented, quindi non tanto basata su questioni che io costruisco, ma sulla base di richieste sostanzialmente, di problematiche costruite da terzi. Il passaggio fondamentale in questo senso è la dimensione trasformativa, cioè io ritengo che la mia antropologia sia necessariamente trasformativa, non mi troverei a mio agio a fare una ricerca dove non ci vedo un appiglio affinché quello che facciamo, il modo in cui spendo il mio tempo, possa contribuire alla trasformazione di un contesto. Certo, quindi ci stai parlando di un'antropologia, utilizzo una parola non cara propriamente a tutti, applicata? Sì, sto parlando di questo, sto parlando di sostanzialmente dal mio punto di vista l'unica antropologia che mi sento in grado di fare. Ci ho speso diversi anni a pensarci, ma anche sostanzialmente a cercare di inventarmi un modo per portarla avanti, ed infatti appunto quando mi definisco antropologo professionista lo faccio anche con la consapevolezza del fatto che sto parlando di un mestiere che sostanzialmente non esiste dal punto di vista statistico, se non altro siamo molto pochi, questo perché appunto la possibilità stessa di costruirsi una nicchia ecologica in cui sopravvivere mettendo a disposizione le proprie competenze è qualcosa di abbastanza complesso per ragioni variegate, a partire dal presupposto che è una disciplina abbastanza giovane rispetto a tante altre, perché ha poco più di un secolo, e che ha avuto una vita che è stata sempre strettamente connessa in gran parte degli stati occidentali, se non altro, con il sistema universitario in senso stretto. Questo, soprattutto in Italia, l'ha resa molto ancillare nella possibilità di sviluppare una professionalità e un'attività applicata in senso stretto. Però lo stato dell'arte ci dice è un po' diverso, ci stai parlando di una professione che tu fai, sei anche un docente, ma sei soprattutto un antropologo professionista, quindi ti chiederei di spiegarci anche da docente come fai ad insegnare un tipo di antropologia che serve al di fuori dell'università. Quindi si può insegnare come lo fai tu, e se si può fare, se è possibile insegnare un'antropologia che può servire, che può avere delle ricadute, così come tu da antropologo ce l'hai nei servizi e per gli utenti, per i clienti, per i pazienti, poi ognuno in base ai propri campi d'azione definisce il proprio soggetto, chi di studio, chi a cui restituire cura e occuparsi dei propri bisogni, insomma di chi porta delle domande, appunto dei bisogni. E quindi mi chiedevo, da docente si insegna quello che sei oggi? Dunque, non so se si insegni quello che sono, perché credo che ci sia un grosso margine del lavoro che dipenda da un po' una storia personale che ha ognuno, del incastrarsi in determinati tipi di dinamiche e sostanzialmente, un po' come tutti i professionisti, costruirsi un contesto di fiducia incrociata dove ci sono committenti che sono disposti sostanzialmente a garantire per te, perché è un po' questo. Il lavoro artigianale si basa anche molto su questo, sostanzialmente, no? Il fatto di riuscire a essere all'interno di determinate reti che riconoscono una tua competenza e quindi ti legittimano, consentendoti poi di sopravvivere, perché ti consentono di lavorare e di continuare a lavorare anche appunto quando un incarico, due incarichi, 10 incarichi sono terminati. Quello che io credo sia molto importante insegnare, e su questo io cerco di spendere molto tempo dal punto di vista didattico, è la dimensione metodologica. Io credo che la retorica dell'antropologia spesso e volentieri abbia molto sacrificato l'importanza del metodo. Prima sentivo Selenia, no, che ha fatto riferimento rapidamente alla dimensione dell'etnografia. Ecco, diciamo che spesso e volentieri, anche dal punto di vista didattico, con il concetto, con la definizione di etnografia, si tende a liquidare l'apparato metodologico necessario a un antropologo, che io invece ritengo essere più ricco, necessariamente più ricco, più versatile, ma anche semplicemente rimanendo ancorati al concetto di etnografia, questo è una sorta di copertina di un libro che in realtà racchiude mille sfumature, di nuovo dal punto di vista strettamente metodologico, e credo che sia di grande importanza riuscire ad insegnare agli studenti fin dall'inizio quella che è la portata, perché io ritengo che è attraverso la portata metodologica che l'antropologia ha un futuro dal punto di vista professionale, ma anche un'utilità dal punto di vista di quello che ci siamo detti poco fa, quindi della possibilità di rendersi utili anche ad altri professionisti che magari hanno delle chiavi di lettura, hanno anche delle visioni comuni, condividono opinioni, aspettative, ma sono competenti rispetto a metodi finalizzati alla loro attività specifica, e non lo sono rispetto ad altre metodologie che appunto sono quelle che dall'antropologia possono arrivare. Da questo punto di vista io credo che il maggior arricchimento che io sono riuscito in genere a portare nei contesti fosse sotto questo piano, sul profilo del metodo. Certo, poi sarebbe interessante, ma non abbiamo tempo oggi, visto che ne avete parlato sia tu sia Selenia, ma sarebbe comunque venuto fuori, perché appunto un metodo è il nostro metodo. Non abbiamo tempo di approfondire l'etnografia, di che cosa si tratta, da quando questa parola è diventata il metodo, ma non soltanto dell'antropologia, anche di altre scienze sociali. Quindi se da una parte il metodo è così importante, dall'altra tu e Selenia parlate dell'applicazione di questo metodo attraverso poi un concetto che attraversa appunto molte altre scienze sociali, che è proprio quello della relazione, perché poi è un metodo che va negoziato, che va calato, che si crea sul campo anche in base alle persone e all'interazione. Quindi questo mi appare fondamentale. Ma rispetto a questo che tu dici, quindi all'applicazione, a lavorare proprio sul metodo, sul come si fa, diceva anche Selenia, non abbiamo un manuale del come si fa, non necessariamente, soprattutto per quello che riguarda l'antropologia professionale. Ma allora mi chiedo, se non abbiamo ancora stabilito un metodo unico, c'è però almeno un contenitore che ci può far arrivare a come ci possiamo considerare veramente antropologi professionisti? Tu parlavi di contratti e di contrattualità, ma esistono i contratti per gli antropologi, non esistendo ancora del tutto la figura professionale dell'antropologo? Dunque, non esistono, o meglio, esistono in maniera, ne esistono molto pochi, in situazioni molto circoscritte. Io lavoro a partita IVA, quindi sono un professionista proprio inteso nel senso comune della parola, non rispetto ad una definizione che alterna quella accademica rispetto al lavoro all'esterno. Io sono un professionista, come si intenderebbe professionista un idraulico, e in realtà mi piace molto calarmi in questo ruolo, cioè mi piace molto rimarcare questa dimensione molto pratica di quello che io intendo come professionalità. Diciamo che una delle parti più divertenti del mio lavoro riguarda proprio i tavoli di contrattazione, quelli in cui si discute di tariffe, soldi a disposizione, non tanto perché si discute di soldi che eventualmente spettino a me, non è quello il passaggio è quello di riuscire a rendere evidente qual è l'utilità di appunto un determinato metodo, una costruzione di un apparato metodologico che si articola nel tempo, che ha una serie di fasi, che prevede il coinvolgimento di persone diverse, che prevede un po' come se fossimo una spugna, no? Quella capacità di assorbire anche metodologie di altre discipline, reinterpretarle, reincastrarle all'interno di qualche cosa di più elaborato e restituirle in modo credibile, cioè quindi sostanzialmente riuscire a costruire un piano di ricerca, di intervento, di consulenza che risulti credibile a un committente e che quindi il committente ritenga opportuno finanziare. Questa è una delle parti che a me dà la soddisfazione più grande, dove appunto, quando faccio riferimento al fatto che non si parla esplicitamente di soldi, si parla di tempo lavoro, che spesso e volentieri appunto non è tempo lavoro mio, no? Perché a me piace molto lavorare su un'idea di ricerca che in realtà coinvolga un discreto numero di persone, e quindi spesso e volentieri si tratta di contrattare spazi che sono anche per altri professionisti che arrivano da altre discipline e che io vedo come potenziali attori all'interno di questo piano. Quindi grazie, questa è la parte. Grazie, sei stato veramente molto molto esaustivo e molto utile, credo. Quindi ti ringrazio, ma un flash prima di lasciarti: l'antropologo non è un lavoro per? Dopo quello che ho detto devo necessariamente fare una chiusa che molti colleghi riterrebbero polemica. L'antropologo non è un lavoro per teorici, è invece una dimensione molto concreta, è molto terra terra, è molto pragmatica, e spesso e volentieri appunto credo che perdersi in eccessivi arzigogoli intellettuali snaturi un po' quello che è il senso artigiano di questa disciplina. Ci piace molto questa antropologia che ci hai raccontato. Ciao, buona serata e grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti e a tutte. Toyi gaugu kaniniya warapunwe ni wapuye waragowe ni wagoka gaugu gatoyi gaugu kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant trois mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre à parole de misanthrope, si t'aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Gaugu gatoyi, je t'aime, gaugu kaniniya, j'en suis sûr. Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Bentornate e bentornati ad Antropologica, sono Miriam e questa è Entropia Massima. Se guardiamo solo all'Italia, l'Italia e invece... E questa che avete appena ascoltato era la voce del rapper, cantante, scrittore, compositore francese di origine burundiana, Gaël Faye. E ora per la rubrica Il bugiardino dell'antropologia, pensata proprio per darci delle istruzioni finalizzate ad assumerla molto consapevolmente, c'è l'antropologa Gloria Frisone che ci dà una definizione di un tipo di antropologia che incontreremo nelle prossime trasmissioni. L'antropologia medica studia la diversità umana nelle svariate semantiche del corpo e della sofferenza, nei molteplici sistemi di cura e rappresentazioni della malattia. Uomini e donne, ricchi e poveri, giovani e anziani, tutti si nutrono per sopravvivere, ma non tutti mangiano le stesse cose, con gli stessi tempi, negli stessi luoghi. In egual modo tutti noi soffriamo, ci ammaliamo, ma non per le stesse ragioni né per le stesse malattie. Alcuni di noi sono più esposti, altri più vulnerabili, altri ancora hanno poche chance di accedere a cure adeguate. Insomma, il corpo non è solo biologico, ma anche culturale e politico, e la malattia è al contempo un evento individuale e sociale che suscita una richiesta di senso mai sopita sulla vita e sulla morte. Meravigliosa Gloria, grazie se ci stai ascoltando. E ora per la rubrica Il bugiardino dell'antropologia, per il rituale di fine puntata di questo bugiardino, andiamo a segnalare alcuni eventi a cui noi antropologhe e antropologi non possiamo assolutamente mancare. Il 5 novembre nella Biblioteca Precaria Metropolitana a Roma, in via Prenestina 944, i precari dell'Accademia incontrano per la seconda volta i cittadini e le cittadine degli stabili occupati nell'ambito di un ciclo di incontri patrocinati dalla Società Italiana di Antropologia Applicata, la SIA, e lo fanno nell'ambito di un'autoinchiesta che mette in relazione saperi e pratiche intorno al tema del lavoro e dello sfruttamento. Il 6 novembre, dalle 10 alle 13, all'Università di Bologna, ci sarà un incontro di studio che riguarderà il nesso tra finanza e migrazioni, organizzato dal gruppo interuniversitario di ricerca di antropologia della finanza, GRAF, e dal Centro Studi su Mobilità, Diversità, Inclusione Sociale, MODI. Dal 5 all'8 novembre, presso il Dipartimento di